Charlotte continuava a scrivere relazioni in francese. Ne ho sotto gli occhi una del 31 maggio 1843 dal titolo Sulla morte di Napoleone, che dimostra quanto fosse grande il progresso da lei fatto. Salta subito agli occhi l'intensità con cui tratta il tema dell'esilio e nella conclusione si legge, né poteva mancare, l'esaltazione del duca di Wellington, eroe idolatrato dalla famiglia Bronte. Quanto spesso, scrivendo questo saggio in terra straniera, Miss Bronte deve aver pensato alle discussioni infantili svoltesi nella cucina della canonica di Haworth sui meriti rispettivi di Wellington e di Bonaparte. Benché l'enunciato del saggio da svolgere fosse «Sur la mort de Napoléon», sembra che ella abbia considerato un punto d'onore cantare le lodi di un inglese, piuttosto che concentrarsi sull'analisi dell'indole di uno straniero, posta com'era fra gente alla quale poco importava dell'Inghilterra e di Wellington. Ormai sapeva di aver fatto grandi progressi nella padronanza del francese, ma per lo studioso zelante, nelle Alpi le vette si innalzano sulle vette, perciò non appena una difficoltà viene sormontata, se ne intravede una nuova e si decide di affrontarla. La nuova meta di Charlotte fu l'impadronirsi del tedesco. Per questo decise di prolungare il soggiorno in Belgio. Anelava a ritrovarsi a casa, ma un forte dominio su se stessa le impediva di cedere. Sostenne una grande lotta interiore. Ogni fibra del suo cuore vibrò, tendendosi all'estremo sotto lo sforzo della volontà. Quando finalmente capì di aver vinto, non si ritrovò calma e sovrana di se stessa come un vincente, ma come una vittima palpitante, sofferente, straziata. La salute uscì molto scossa dalla lotta, i nervi e lo spirito cedettero. Bruxelles, 1 agosto 1843. Se in questa lettera mi lamento, compatiscimi e sii indulgente, perché te ne avverto, sono molto depressa e la terra e il cielo mi sembrano vuoti e desolati. Tra pochi giorni avranno inizio le vacanze. Tutte sono piene di gioia e di animazione a questa prospettiva, perché stanno per andarsene a casa. Io so che resterò qui per 5 settimane, tanto dureranno le vacanze, che sarò sola per tutto questo tempo, perciò mi sento depressa e trovo faticosi tanto i giorni quanto le notti. È la prima volta in vita mia che temo le vacanze. Ahimè, sono a malapena in condizione di scrivere. Un'ombra così cupa mi incombe sul cuore. Desidero talmente tornare a casa. Non è un atteggiamento puerile. Scusami, ma non so che farci. Tuttavia, anche se non sono abbastanza forte per tener duro gaiamente, resterò ancora per alcuni mesi finché mi sarò impadronita del tedesco. Poi spero di rivedervi tutte. Ah, se le vacanze fossero già passate, trascorreranno così lentamente. Abbi la carità cristiana di scrivermi una lunga lettera, riempila con i particolari più minuti. Niente sarà privo di interesse per me. Non pensare che io desideri lasciare il Belgio perché qui mancano di gentilezza per me. Niente del genere. Tutti sono più che cortesi, ma la nostalgia di casa si insinua continuamente e non riesco a tenerla lontana. Credimi assai gaiamente, vivacemente, allegramente tua, Charlotte Bronte. Le grandes vacances ebbero inizio poco tempo dopo la data di questa lettera. Charlotte rimase nel grande pensionato deserto con la compagnia di un'unica insegnante. Costei, una francese, le era sempre stata antipatica e ora, trovandosi a stretto contatto con lei, Charlotte scoprì ben presto che quella collega era immorale, dedita a una fredda, sistematica sensualità, più di quanto aveva immaginato fosse possibile in una creatura umana, e tutto l'essere suo si ribellò alla vicinanza di quella donna. Una bassa febbre nervosa si stava impossessando di Charlotte. Non aveva mai conosciuto il sonno profondo, ma ora non le riusciva più di dormire. Tutto quanto vi era stato dispiacevole o di urtante durante la giornata si ripresentava con esasperato rilievo alla sua fantasia sconvolta. Inoltre, da casa giungevano notizie, specialmente a proposito di Branwell, atte a preoccuparla, ad angosciarla. Nel cuore della notte, mentre giaceva desta in fondo al lungo dormitorio deserto, nella vasta casa silenziosa, ogni timore rispetto a quelli che le erano cari e si trovavano tanto lontani diventava terribilmente reale, la opprimeva, le bloccava il flusso del sangue al cuore. Quelle notti erano ore di squallida, insonne desolazione. Durante la giornata spinta a uscire dalla repulsione che le ispirava la compagna e dalla debilitante irrequietezza che le veniva dalla febbre, tentava di stancarsi camminando, tanto da conciliarsi il sonno, e così usciva e a passi stanchi percorreva i corsi, le vie, a volte per ore e ore, riposando occasionalmente su una delle numerose panchine offerte al riposo di gruppi felici e di solitari deambulatori. Poi si rizzava, dirigendosi verso una meta qualsiasi, purché non fosse il pensionato. Andava al cimitero dove riposava Marta, e più oltre, verso le colline, dove non c'è nulla da vedere all'infuori dei campi coltivati che si estendono fino all'orizzonte. Le ombre della sera la costringevano a tornare sui suoi passi, sentendosi venir meno per la mancanza di cibo, eppure priva di appetito, stanca per il lungo esercizio fisico, ma ancora irrequieta, condannata a un'altra notte insonne, popolata da incubi a occhi aperti. Anche quando girovagava per le vie adiacenti alla Rue d'Isabelle, la evitava, temendo di incontrarvi l'altra abitante dell'istituto, indugiando fino a quando l'ora tarda non la costringeva a rincasare. Alla fine fu costretta a letto per alcuni giorni e quel riposo forzato le fece bene. Quando la scuola riaprì i battenti, si sentiva meno depressa e in grado di riassumere il lavoro. Scrive, 15 ottobre 1843. Mary procede bene come davvero merita. Ricevo spesso sue notizie. Le sue lettere e le tue sono uno dei miei pochi piaceri. Insiste molto perché io lasci Bruxelles e la vada a raggiungere, ma in questo momento, per quanto ciò mi tenti moltissimo, non mi sento giustificata a fare un simile passo. Lasciare una posizione sicura per un'altra del tutto incerta, beh, costituirebbe una vera e propria imprudenza. Tuttavia Bruxelles è desolante per me ormai. Da quando i D sono partiti non ho una sola amica. Contavo su alcuni conoscenti gentilissimi nella famiglia del dottor, ma anche loro sono andati via. Partirono alla fine di agosto ed eccomi completamente sola. È una strana condizione l'essere così totalmente isolata in mezzo alla folla. A volte la solitudine mi opprime eccessivamente. Un giorno, ultimamente, mi sembrò di non poterla sopportare più a lungo. Così andai da Madame Heger e mi licenziai. Se fosse dipeso da lei sarei stata subito lasciata libera, ma Monsieur Heger, avendo saputo la cosa, mi mandò a chiamare il giorno seguente e mi comunicò con enfasi quanto lui aveva deciso. Non me ne dovevo andare. Non potevo in quel momento insistere nella mia decisione senza incorrere nella sua ira, perciò promisi di fermarmi ancora un poco. Per quanto tempo non lo so, non mi piacerebbe tornare in Inghilterra per non farvi nulla, non ho più l'età per accettare una simile situazione, ma e se fossi a conoscenza di un'opportunità favorevole all'apertura di una scuola, penso che tenterei. Qui non si accende ancora il fuoco e il freddo mi fa molto soffrire, tuttavia sono in buona salute. Mister porterà questa lettera in Inghilterra. È un giovanotto di bell'aspetto e di buone maniere, apparentemente privo di spina dorsale. Con ciò non intendo riferirmi alla sua spina dorsale fisica, che è più che a posto, ma al suo carattere. Qui vado avanti più o meno, ma ora che Mary D. è partita, non ho nessuno con cui parlare, visto che considero i belgi zero. Ogni tanto mi chiedo per quanto tempo ancora rimarrò qui. Finora mi sono solamente posta la domanda, non vi ho risposto. In ogni caso, appena sarò a posto col tedesco, penso che farò le valigie e partirò. Veri e propri crampi di nostalgia mi trafiggono il cuore ogni tanto. Oggi la luce è cruda, sono istupidita dal raffreddore e dal mal di capo. Non ho niente da dirti, qui ogni giorno è uguale all'altro. So che tu, che vivi in campagna, stenterai a credere che la vita possa essere monotona in una brillante capitale quale è Bruxelles. Ma è proprio come ti dico. Me ne rendo conto, specialmente nei giorni festivi, quando le ragazze e le insegnanti escono per andare a far visita a parenti e amici, e capita che io sia lasciata assolutamente sola per alcune ore con quattro vaste, desolate classi vuote a mia intera disposizione. Tento di leggere, tento di scrivere, ma invano. Vago da una stanza all'altra, ma il silenzio e la solitudine che vi regnano si abbattono sullo spirito come una cappa di piombo. Stenterai a credere che Madame Heger, buona e gentile come te l'ho descritta, non mi venga mai vicina in simili circostanze. Confesso che la prima volta in cui fui lasciata sola nel modo che ti ho descritto rimasi sgomenta. Tutte le altre intanto godevano il piacere di un giorno di festa trascorso in mezzo a persone amiche. Lei Sapeva che ero completamente sola, ma non mi prestò la minima attenzione. Eppure mi dicono che mi loda moltissimo con tutti e racconta come siano eccellenti le lezioni che do. Non è più fredda con me di quanto lo sia con le altre insegnanti, ma loro dipendono meno di me dal suo interessamento. Hanno parenti e conoscenti a Bruxelles. Ricordi le lettere che mi scriveva dopo il mio ritorno in Inghilterra? Quanto era gentile e affettuosa? Com'è strano. Bada che quanto ti scrive è un semplice sfogo. Da tutti gli altri punti di vista sono senz'altro soddisfatta della mia situazione qui, e tu lo puoi dire a chi ti chiede di me, ammesso che qualcuno lo faccia. Scrivimi, cara, ogni volta che puoi. Quando mi mandi una lettera, compi una buona azione perché conforti un desolatissimo cuore. Uno dei motivi per il silenzioso straniamento prodottosi tra Madame Heger e Miss Bronte durante il secondo anno della permanenza di costei a Bruxelles va individuato nel fatto che la repulsione della protestante per il culto romano aumentava mano a mano che ne approfondiva la conoscenza e ne riscontrava gli effetti su quanti lo professavano. Quando l'occasione se ne presentava, Miss Bronte esprimeva senza scendere a compromessi il concetto in cui lo teneva. Da parte sua, Madame Heger non solo era cattolica romana, ma poteva essere addirittura considerata bigotta. Di temperamento privo di calore e di slancio, era naturalmente governata più dalla coscienza che dagli affetti. La coscienza era sotto l'influsso delle sue guide religiose. Considerava ogni appunto mosso alla sua chiesa alla stregua di una bestemmia contro la santa verità, perciò, pur non indulgendo all'aperta espressione di quanto pensava e sentiva in proposito, dava prova di quanto risentisse l'offesa arrecata ai principi che amava tanto, ostentando un comportamento sempre più freddo nei riguardi della colpevole. Penso, perciò, che nell'assenza di un'aperta spiegazione circa i rapporti con Madame Heger in quel lasso di tempo, quanto detto qui sopra possa essere considerato come motivo sufficiente. Charlotte prese penosamente coscienza del silenzioso estraniamento prodottosi tra loro e del quale l'altra, forse, si rendeva appena conto. Poco più su ha accennato a certe notizie giunte da casa, fatte per angosciare al massimo Charlotte. Riguardavano il fratello, Bronwell. Ne parlerò più estesamente quando le ultime conseguenze della condotta di questi inciderà dolorosamente sulla vita delle sorelle. Vi accenno qui perché la lettrice possa rendersi conto delle gravi preoccupazioni personali che Charlotte sopportava senza dirne una parola ad alcuno. La sua pena poteva essere attenuata solamente dal diligente compimento, ora per ora, delle incombenze che le spettavano. Un'altra minaccia si profilava all'orizzonte. La vista del padre andava indebolendosi e non era da escludere che il processo si concludesse con una totale cecità. La maggior parte delle sue incombenze erano ormai affidate a un curato che Mr. Bronte, sempre liberale, compensava con una cifra maggiore di quanto avesse mai fatto in passato. Così Charlotte scriveva a Emily, 1° dicembre 1843. È domenica mattina. Tutte quante sono andate a quella loro messa idolatra e io sono qui nel refettorio. Non so dire quanto mi piacerebbe essere in sala da pranzo a casa oppure in cucina o nel retro cucina. Mi piacerebbe perfino tagliare la carne per lo stufato, col chierico e gli impiegati del registro seduti all'altro tavolo e tu vicino a me a badare che metta abbastanza farina e non troppo pepe. E poi tengo da parte i pezzi migliori del cosciotto di castrato per Tiger e Keeper, il primo dei quali balzerebbe intorno al piatto e al coltello da scalco e l'altro se ne starebbe ritto sul pavimento, teso come una fiamma. E per completare il quadro, Tabby che soffia sul fuoco per far bollire le patate fino a ridurle a una massa vegetale. Come questo quadro, fatto di ricordi, è divino per me, in contrasto col momento in cui vivo. Eppure non penso di far ritorno a casa nel prossimo futuro. Mi manca una vera ragione per farlo. È vero, tutto qui è squallido, ma non posso tornare senza una chiara prospettiva sul da farsi una volta che vi sarò. E questa prospettiva non deve essere quella di un impiego. Equivarrebbe a un cadere dalla padella alla brace. Dici che vivi da oziosa? Assurdo, assurdo! Papà sta bene, tu stai bene e Tabby? Mi chiedi della visita della regina Vittoria a Bruxelles. L'ho vista per un istante, rapido come un lampo, mentre passava per la Rue Royale in un tiro a sei circondato da soldati. Rideva e parlava molto allegramente. Ha l'aspetto di una vivace signora, alquanto corpulenta, vestita molto semplicemente, senza gran dignità né pretesa. Ai belgi nell'insieme è piaciuta abbastanza. Dicono che ha dato vita alla cupa corte di Re Leopoldo, che solitamente è luttuosa come un convento. Oh, scrivimi, scrivimi nuovamente al più presto. Dimmi se papà desidera veramente moltissimo che io torni a casa e se lo vuoi molto anche tu. Ho l'impressione che non servirei a granché tra voi. Sarei una specie di persona anziana a carico della parrocchia. Spero, anima e cuore, che tutto vada bene a Haworth, soprattutto nella nostra grigia casa semideserta. Dio ne benedica i muri. Sicurezza, salute, prosperità, felicità a te, a papà, a Tabby. Amen. Charlotte. Verso la fine di quell'anno, 1843, svariati motivi si aggiunsero alle cause di ansietà cui ho accennato, per dare a Charlotte l'impressione che la sua presenza fosse assolutamente e imperativamente richiesta a casa. A Bruxelles aveva ottenuto quanto si era proposta di far suo, recandovisi per la seconda volta. Inoltre le era venuta a mancare la gentile considerazione di Madame Heger. La pena che le logorava la mente, sensibilissima, l'indusse ad annunciare all'improvviso l'intenzione di ritornare al più presto in Inghilterra, e Monsieur e Madame Heger, quando furono informati di quel tanto della situazione che la poteva palesare a persone strane, cioè l'incipiente cecità del padre, concordarono che quanto si proponeva di fare era per il meglio. La partenza fu dunque decisa, ma a mano che si avvicinava il momento della inevitabile separazione dalle persone e dai luoghi di tante ore felici, le forze le cedettero. Aveva il presentimento di vederli per l'ultima volta e ricavava poco conforto quando le dicevano che Haworth e Bruxelles non erano poi così lontane, che andare da un luogo all'altro non era impraticabile, nemmeno così difficile come le lacrime che versava sembravano dichiarare. Si giunse addirittura a prospettare la possibilità di mandarle una delle ragazze Heger come allieva nel caso che riuscisse a realizzare il progetto di aprire una scuola. Per facilitargliene la possibilità, Monsieur Heger le rilasciò una specie di diploma datato e firmato, convalidato dal sigillo del Regio Ateneo di Bruxelles, che attestava la sua capacità di insegnare la lingua francese, avendo studiato grammatica e composizione nel suo istituto ed essendosi preparata all'insegnamento con lo studio e la pratica. Questo certificato porta la data del 29 dicembre 1843. Il 2 gennaio 1844, Charlotte giunse a Haworth. Il 23 dello stesso mese scrive quanto segue. Tutti mi chiedono che cosa intenda fare ora che sono ritornata definitivamente a casa e sembra che si aspettino di vedermi aprire una scuola su due piedi. A dire il vero è quanto desidererei fare. Lo desidero più di ogni altra cosa al mondo. Ho denaro sufficiente per lanciarmi nell'impresa e spero bastanti qualifiche da garantirmi una buona probabilità di successo. Tuttavia, non posso permettermi ancora di incamminarmi definitivamente nella via, di toccare la meta che sembra a portata di mano e che per tanto tempo mi sono sforzata al limite delle mie forze di raggiungere. Mi chiederai perché? È a causa di papà. Come sai, è molto invecchiato e devo dirti con grande dispiacere che sta perdendo la vista. Già da vari mesi sentivo che non dovevo più rimanere lontana da lui e ora mi rendo conto che sarebbe troppo egoistico da parte mia lasciarlo almeno finché Bronwell e Anne sono via da casa per perseguire interessi personali. Con l'aiuto di Dio troverò la forza di aspettare. Soffrii molto prima di lasciare Bruxelles. Penso che per quanto a lungo viva non potrò mai dimenticare quanto mi sia costato separarmi da Monsieur Heger, di causare un dolore a chi è stato per me un vero amico, pieno di bontà e disinteresse. Al momento della separazione mi ha consegnato una specie di diploma che attesta la mia capacità come insegnante, ufficialmente siglato dall'Ateneo Royal, dove lui è professore. Sono anche stata sorpresa dal dispiacere manifestato dalle mie alunne quando hanno saputo che sarei partita. Non credevo proprio che la loro flemmatica indole sarebbe stata capace di attaccamento. Non so se vi sono momenti in cui senti quel che sento io ora. A tratti mi sembra che tutte le mie idee, i miei sentimenti, eccettuate poche amicizie e alcuni affetti, siano cambiati. La mia naturale tendenza all'entusiasmo è domata, quasi perduta. Ho meno illusioni. Quel che desidero è un'attività, un punto fermo. Haworth mi sembra così quieta, così solitaria ai confini del mondo. Ah, non mi considero più tanto giovane, avrò presto 28 anni. Dovrei essere in grado di lavorare, di affrontare la dura realtà come fanno tante altre, ma è mio dovere soffocare queste aspirazioni nell'ora presente. e tenterò di farlo. Naturalmente, il fratello e la sorella assenti ottennero una licenza per festeggiare il suo ritorno e dopo alcune settimane a casa riuscirono a fare a meno di lei, tanto da permetterle di andare ospite dalla sua amica a B. Ma era lontana dall'essere in forma e in buona salute, tanto che quel corto viaggio di 14 miglia sembra l'abbia provata grandemente. Poco dopo il suo ritorno a Haworth, scrisse a uno dei membri della famiglia che l'aveva accolta. Nella lettera leggiamo le seguenti righe. Il nostro povero gattino è morto dopo 2 giorni di malattia. È uno spettacolo pietoso vedere una creatura, sia pur un animale, giacere privo di vita. Emily è dispiaciuta. Queste poche parole sono interessanti perché sottolineano l'indole delle sorelle. Charlotte era eccezionalmente tenera nel trattare le creature prive di parole e queste, con quell'istinto che tutti riconoscono in loro, erano fortemente attratte da lei. Ma fra lei e le persone che incontrava vi era come una barriera, la profonda, esagerata consapevolezza dei suoi difetti personali, insieme con una costituzionale incapacità alla speranza, la trattenevano dal credere all'affetto altrui e dal concedere il suo. Da qui nasceva il suo modo di fare, timido e riservato, perfino con i bambini. La grata sorpresa che manifesta quando viene a sapere che alle sue alunne dispiace di vederla partire ci aiuta a capire molte cose. Nei confronti degli animali si mostra sempre gentile, usa un tono mite e carezzevole, è pronta a notare ogni minima mancanza degli altri verso i suoi muti amici. Chi ha letto Shirley ricorderà la prova alla quale l'eroina sottopone l'innamorato per giudicarne il carattere. Sai a quali indovini ricorrerei? Al piccolo mendicante irlandese che giunge scalzo fino alla mia soglia, al topolino che sguscia prudentemente dalla fessura nel rivestimento di legno della mia camera, all'uccello che in un mondo di brina e di neve picchietta col becco all'impannata della mia finestra per chiedere una briciola, al cane che mi lambisce la mano e si accuccia contro le mie gambe. Conosco qualcuno sulle cui ginocchia la gatta nera si accoccola con piacere, contro la cui spalla, la cui guancia gli piace strofinare il musino. La vecchia cagna esce sempre dal suo casotto e s'agita la coda e mugola affettuosamente quando qualcuno passa. Questa persona accarezza quieta la gatta, la lascia accoccolata sulle ginocchia finché rimane seduta e quando la deve disturbare rizzandosi, la mette giù gentilmente, non la caccia mai via con malgarbo, fischia il cane e gli fa una carezza. Il sentimento che in Charlotte era semplice affetto, in Emily prendeva le caratteristiche della passione. Qualcuno parlandomi di lei disse con evidente esagerazione: non dimostrò mai alcun interesse per le creature umane. Il suo amore era unicamente riservato agli animali. La condizione dipendente di un animale era il passaporto che gli dava accesso al cuore di Charlotte, mentre la selvatica intrattabilità dell'indole era quanto lo raccomandava a Emily. Parlandomi della sorella morta, la maggiore mi disse che molti tratti del carattere di Shirley erano stati presi da quello di lei. La consuetudine di sedere sul tappeto leggendo col braccio intorno al collo del suo intrattabile bulldog, l'aver chiamato un cane sconosciuto che passava correndo a testa bassa e lingua ciondoloni per dargli un misericordioso sorso d'acqua, ricevendone in contraccambio un selvaggio morso. La sua intrepida presenza di spirito che l'aveva indotta a recarsi immediatamente in cucina, prendere dal focolare uno degli attrezzatoi arroventati di Tabby e cauterizzare la ferita senza dir verbo sull'accaduto finché il periodo di una possibile incubazione di rabbia non fu passato, evitando ai membri della famiglia l'incubo del terrore. I fatti narrati in Shirley, che sono generalmente considerati di pura invenzione, furono scritti fra le lacrime da Charlotte. Erano il resoconto esatto di quanto aveva fatto Emily nella stessa circostanza. Il bulldog fulvo dal respiro strozzato, descritto in Shirley, era il keeper della canonica di Haworth, proprietà personale di Emily. Glielo avevano regalato avvisandola. Keeper era fedele fino in fondo purché avesse a che fare con persone amiche, ma se fosse stato colpito con un bastone, con una frusta, in lui si sarebbe scatenata la naturale violenza propria alla sua razza e sarebbe saltato alla gola dell'offensore e non avrebbe disserrato le mascelle finché l'altro non fosse morto. Keeper aveva il vizio di salire di nascosto al primo piano per adagiare la sua massiccia mole fulva su uno dei comodi letti coperti da delicate coltri bianche. La tradizionale pulizia della canonica era naturalmente contraria al vizio di Keeper, tanto che Emily, alle ripetute rimostranze di Tabby, dichiarò che se il cane fosse stato nuovamente trovato in flagrante, l'avrebbe punito personalmente, sfidando l'avvertimento ricevuto tanto severamente che il colpevole non avrebbe più ripetuto l'offesa. In una sera autunnale, mentre il crepuscolo andava addensandosi, Tabby si presentò tra trionfante e spaventata, ma in preda all'ira, per annunciare a Emily che Keeper se ne stava adagiato in voluttuoso dormiveglia sul miglior letto di casa. Charlotte vide impallidire in viso la sorella. La bocca prese un'espressione dura. Non osò interferire, nessuno aveva l'ardire di farlo quando gli occhi della giovane si accendevano in un certo modo, mentre il viso sbiancava e le labbra si serravano rigidamente. Emily salì al primo piano, Charlotte e Tabby rimasero ritte nel buio corridoio a pian terreno mentre la cupa ombra della notte scendeva. Emily ricomparve al sommo delle scale e le scese, trascinando il renitente Keeper afferrato per la collottola. Le zampe posteriori saldamente piazzate a mo' di freno, mentre emetteva un ininterrotto ringhio minaccioso. Le due testimoni avrebbero voluto intervenire, ma non osarono farlo per tema di distrarre Emily, inducendola a distogliere lo sguardo anche per un solo secondo dall'animale infuriato. Lei lo mollò in un angolo buio ai piedi della scala. Non vi era tempo di andare in cerca di un bastone o di una corda, per tema della prevedibile stretta che l'avrebbe presa alla gola. Ed ecco che i suoi pugni nudi colpirono i feroci occhi arrossati del cane prima che quello avesse il tempo di balzare in avanti. Lo punì fino a fargli gonfiare gli occhi e il semiaccecato e istupidito animale fu ricondotto alla sua cuccia, dove Emily stessa gli medicò gli occhi e il muso gonfi. Il generoso cane non le portò rancore, l'amò profondamente, per sempre. Fu fra i primi nel corteo che seguì il suo funerale tempo dopo, giacque gemendo una notte dopo l'altra dietro la porta della sua camera vuota, mai più diede segno di gioia canina. E quando morì fu pianto dall'unica sorella sopravvissuta. Speriamo dunque, accettando il credo degli indiani, che ora egli segua Emily nel mondo ultraterreno e che giaccia, impunito, su un morbido letto di bianchi sogni, quando si desta nella terra delle ombre. Ora possiamo capire il vero significato delle parole: il nostro povero gattino è morto. Emily è dispiaciuta.